Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno e buona domenica ai nostri ascoltatori. Benvenuti a questo incontro di oggi. L'incontro è con Carlo Ciani. Buongiorno, dottor Ciani. Buongiorno, direttore. Carlo Ciani ha una lunga esperienza, come vedremo, nell'attività finanziaria, assicurativa, ai vertici delle grandi imprese italiane e attualmente amministratore delegato del Centro Cardiologico Monzino e dell'Istituto Europeo di Oncologia. Due grandi, importanti strutture nel campo sanitario, due strutture che affiancano appunto la sanità per in quest'opera in due settori molto importanti, la cardiologia appunto e la cura dei tumori. Allora, dottor Ciani, come è iniziata la sua carriera? Dunque, io lavoro da circa 57 anni, dopo essermi diplomato sono uno studente lavoratore, poi sono laureato alla Cattolica, lavorando di giorno e studiando alla sera. E ho iniziato subito perché a quell'epoca eravamo anche fortunati in quanto che le offerte di lavoro erano abbondanti. Io ricordo che trovai nella mia casella di postale 5 offerte di lavoro dopo, sulla base dei voti di ammissione all'istituto tecnico. Quindi direi, rispetto ai ragazzi d'oggi, una posizione di partenza molto favorita. Erano gli anni del miracolo economico. Sì, con una grande volontà di fare, direi anche con uno spirito molto, molto bello, molto simpatico, con una voglia proprio veramente di costruire, perché in fondo la guerra non era finita da molto. E, quindi ho fatto 11 anni al Credito Italiano, adesso non voglio farla troppo lunga, ma molto rapidamente direi. Poi sono passato a Mediobanca, dove sono stato 16 anni come direttore centrale. Poi intorno agli anni 80 sono andato nel gruppo Coin di Venezia come amministratore delegato e presidente anche della holding del gruppo. E sono rimasto quasi 10 anni perché sono sempre rimasto dei lunghi periodi nelle aziende, anche perché sono necessari per impostare dei programmi seri. Ecco. E dopo 10 anni sono rientrato a Milano intorno agli anni 90 e sono ritornato nel gruppo Credito Italiano come amministratore delegato della loro società di prodotti finanziari, la Credit Consul. Poi era sorto nel frattempo, era purtroppo scoppiata Tangentopoli, c'erano delle posizioni difficili su alcuni gruppi imprenditoriali. Mediobanca mi ha chiesto di occuparmi del gruppo Ligresti e quindi SAI, perché c'era indubbiamente una debitoria abbastanza complessa, cosa che sono riuscito fortunatamente a sistemare in diversi anni di duro lavoro. Dopodiché sono rimasto nel gruppo come amministratore delegato della SAI, che ho lasciato dopo avere praticamente concluso anche l'acquisizione della maggioranza della fondiaria, per cui è nato questo gruppo fondiario SAI, che è quindi molto importante. Le banche, la grande distribuzione e le assicurazioni. L'assicurazione, sì. Ecco, tornando un attimo indietro, cosa ricorda della Milano degli anni 50, degli anni 60, delle banche di allora? Ma direi cambiato completamente proprio il modo di lavorare e anche così gli obiettivi, perché a quell'epoca le banche, la forza della banca era lavorare bene sul rischio e quindi sugli impieghi. Di conseguenza c'erano un'attenzione ai bilanci, alla vita delle aziende. Oggi se tenderei a dire che gli utili, i risultati delle banche nascono di più da fattori organizzativi, perché una banca che faccia riorganizzazione del personale e che, perché sono grossi blocchi, vanno via 2-3 mila persone, il bilancio è già fatto con quello. Quindi la parte contenzioso, la parte rischio mi sembra che sia meno coltivata. E poi oggigiorno vivono essenzialmente, i bilanci si formano con le commissioni, con i proventi vari che sono preponderanti. Ecco, ma il sistema bancario era veramente quella foresta pietrificata che ci hanno tramandato? Beh, direi che onestamente non c'era una grande possibilità per persone che non avessero delle garanzie da offrire per poter sviluppare delle attività. Questo è un po' rimasto ancora nello spirito della banca, anche se oggi devo dire c'è una maggiore attenzione all'uomo più che, diciamo, alle garanzie, quindi si punta anche sull'imprenditore, quindi sulle idee, sulla maturità del mercato. Sotto questo aspetto direi c'è stata un'evoluzione positiva. Forse è più facile adesso fare carriera, anche se è più difficile forse entrare nel sistema bancario per un giovane. Ma direi che effettivamente il reclutamento, brutta parola, è molto complesso, perché si tende a lavorare poco sul turnover, e quindi una volta entrati, se una persona, diciamo, ha voglia di fare, ha capacità eccetera, direi che sostanzialmente le carriere sono molto più rapide che nel passato. Lei ha avuto anche dei ruoli nelle associazioni, sia sul livello bancario, sia a livello di grande distribuzione, sì, sia a livello di assicurazione. Sono stato 4 anni, sono stato vicepresidente della Concommercio nel periodo in cui ero amministratore delegato alla Coin, poi sono stato presidente invece della FAID, che era proprio l'associazione specifica della grande distribuzione, quindi accorpava Rinascente, Standa, Coin, i vari, diciamo, le altre società del settore, per quasi 4 anni, quindi un lavoro anche interessante sotto questo aspetto. Si riesce a far fare rete alle imprese in Italia, che è uno dei problemi questo? Ma avrei qualche perplessità, onestamente, perché prevale sempre un po' lo spirito, diciamo, l'interesse diretto dell'azienda, quindi è difficile portare poi a fattor comune delle battaglie o degli obiettivi eccetera, perché poi emerge, diciamo, con un po' l'interesse aziendale. Però insomma direi che l'evoluzione, le persone sono molto più mature, più evolute, quindi sicuramente anche sotto questo aspetto un miglioramento lo c'è. Ecco, ringrazio Carlo Ciani per questo sguardo un po' sul passato. Incontri. Queste note di Luce di Laribarta, Charlie Chaplin, riprendiamo il nostro dialogo con Carlo Ciani. Carlo Ciani, abbiamo parlato della prima parte del programma, della sua esperienza nelle banche, nelle assicurazioni, nella grande distribuzione. Perché Charlie Chaplin evoca qualcosa, questa musica di Luce di Laribarta? Perché, diciamo, a parte che tutta la produzione di Chaplin mi ha sempre molto interessato, perché è un po' questa, diciamo, situazione dell'uomo non particolarmente fortunato, ma sostanzialmente onesto, diciamo corretto, che quindi che è un po' l'uomo comune, che è anche la situazione di molte, non dico della maggioranza, ma soprattutto poi in un'epoca come questa, così discriminante, dove tutto è impostato un po' sulla lotta. E certo, in fondo una grande la mia simpatia va a questo tipo di uomo, ecco. Una grande umanità, una grande... Sì, mi ci riconosco abbastanza, ecco, diciamo. E forse per questo, anche per questa passione per l'umanità che l'ha portata in questi anni a avere un posto di responsabilità, in fondo a mettere a frutto la sua esperienza nei diversi settori che abbiamo visto prima, in una realtà nuova come la sanità. Sì, direi che sono stato veramente fortunato, perché chiudere la mia carriera manageriale, perché penso che questo sarà il mio ultimo incarico, in una struttura dove ci sia prevalente, diciamo, un interesse sociale, umano, è onestamente, io infatti le mie aspirazioni erano, oscillavano fra diventare direttore generale di un grande museo, che è una cosa che mi affascinava, oppure appunto entrare in una struttura sanitaria. Se ho verificato questa opportunità, ne sono veramente, veramente lieto. Quindi lei è amministratore delegato, lo ricordiamo, del Centro Cardiologico Monzino e dell'Istituto Europeo di Oncologia. Amministratore delegato, cosa vuol dire? Ecco, l'Istituto Europeo di Oncologia è il grande istituto milanese fondato da Veronesi, uno dei punti di eccellenza nella sanità privata italiana. Cosa vuol dire essere amministratore delegato? Ma direi che è un... c'è molto da fare, perché in fondo in un istituto di questo tipo ci sono ovviamente due anime. C'è un'anima scientifica e della ricerca molto importante, per cui sostanzialmente quello è il fulcro. Ma per l'amministratore è importante dare veramente una contribuzione notevole, perché siamo nell'ambito di una guerra veramente strenua, parlo per esempio per quanto riguarda lo IEO, nei confronti di una malattia che ancora oggi e che è destinata a diventare, diciamo, vedere la presenza di un malato, diciamo, in ogni famiglia, una su due famiglie italiane nel 2030, secondo le previsioni. Perché purtroppo, malgrado la maggiore efficacia delle cure che consentono a far sì che la popolazione malata sopravviva molto più a lungo del passato, però i nuovi casi non sono affatto diminuiti. Oggigiorno ci sono circa, l'ultima statistica, circa 280-300 mila nuovi casi all'anno in Italia, che non è affatto poco. Certo. E che fanno sì che la popolazione malata di cancro sia sempre in costante aumento, perché fortunatamente si riesce ad allungare molto le sopravvivenze. Noi stiamo, quello su cui ci stiamo focalizzando come amministrazione, stiamo puntando e spendendo moltissimo è la prevenzione, perché siamo convinti che i soldi vadano spesi soprattutto lì. Perché i farmaci antitumorali ovviamente sono molto efficaci e migliorano molto, però poter precocemente individuare il cancro, quella è la vera strada per salvare le vite umane. Intervenire subito, intervenire quando ci sono i primi sintomi, quando i sintomi non ci sono ancora. Quando la diagnosi precoce sì, è fondamentale, quindi screening di massa. Noi per esempio abbiamo un programma, si chiama Cosmos, che riguarda tutte le persone oltre i 50 anni che hanno fumato da più di 20 anni. Abbiamo già fatto quasi 5.000 reclutamenti e addirittura vorremmo portarlo a 20.000. È un reclutamento gratuito, quindi vengono fatti esami molto importanti, ed è per noi grande soddisfazione quando magari scopriamo una persona totalmente, diciamo, che si riteneva totalmente sana, invece una puntina che è tolta subito, certo, fa sì che questo signore vivrà molto bene senza nessun problema, mentre invece forse avrebbe avuto 6 mesi di vita, perché poi la propagazione di un tumore polmonare è anche molto rapida. E poi molto difficile quando è in fase avanzata contrastarlo. Quindi l'intercettazione, diciamo, precoce del tumore è la vera strada su cui andare e investire molto proprio. Ecco, in questo senso uno dei suoi compiti è anche quello di far quadrare i bilanci. Naturalmente noi, diciamo, io almeno sono del parere, anche forte della mia esperienza, che noi abbiamo un motto che è: si cura meglio dove si fa ricerca. Io aggiungerei anche che si cura meglio dove si riesce ad avere anche i conti in regola, perché è molto importante avere una sanità anche del bilancio. Quindi, diciamo, investiamo con costanza, e quindi non ci facciamo sotto questo aspetto mancare nulla, però dobbiamo anche essere molto vigilanti nella quadratura del. Ecco, voi siete un istituto privato come struttura, sì, giuridica? Sì, un privato un po' particolare, perché per statuto non distribuisce nessun dividendo a chi che sia dei suoi azionisti, quindi sostanzialmente dedica tutto il margine alla ricerca. Ecco, però ha un finanziamento pubblico perché per la... Ha un finanziamento pubblico anche importante per la ricerca, che vale quasi il 60% del totale delle spese della ricerca. L'altro, per arrivare a 100, viene sovvenuto o da, diciamo, sovventori privati, sovventori, diciamo, associativi tipo l'AIRC, che finanzia molti i nostri progetti di ricerca, e poi è lo stesso istituto con il proprio conto economico che fa fronte, salda i conti. Quali sono stati i passi compiuti negli ultimi anni? Avete appena aperto un nuovo centro? Ma appunto, andando un po' nella direzione che dicevo, avendo sempre questa centralità del paziente, adesso stiamo disegnando un percorso che assicuri al paziente la massima efficacia delle cure con il minor disagio possibile. Quindi adesso abbiamo appunto aperto una nuova struttura che si propone di mandare a casa il paziente alla sera. Quindi alla sera quella struttura si chiude e non ci sono pazienti. Un day hospital. Un day hospital e un day surgery, anche importante, perché eseguiamo gli interventi che un tempo comportavano anche uno, qualche volta due giorni di degenza, mentre invece adesso si inizia al mattino e alla sera la persona torna a casa sua. È seguito molto attentamente, perché al mattino presto, subito, viene seguita la condizione fisica ed eventualmente c'è il rientro se c'è qualcosa che non funziona. Comunque la nostra idea è proprio quella di disegnare un percorso sempre più collegabile alle esigenze del paziente, perché questo è molto importante. Progetti per il futuro? Ma il futuro, molte cose naturalmente in testa, non escludo che fra qualche anno ci possa essere anche uno IEO 3 per diciamo sviluppo di parti che noi non abbiamo ancora, perché il nostro ciclo è completo, ma noi per esempio non abbiamo una neurochirurgia oncologica, che è una cosa che sicuramente ci interessa. Poi anche la pneumatologia è un altro dei punti da sviluppare, e poi anche ovviamente la protonterapia, che è sicuramente una delle armi più efficaci nella cura dei tumori vicino ad organi critici. Cosa le dice il professor Veronesi quando la incontra? Ma lui, vabbè, scherzosamente dice: questo è il mio boss, ma comunque io ritengo che lui sia diciamo il leader indiscusso di questo istituto, e ho naturalmente con lui un ottimo rapporto. È chiaro che, come ogni scienziato e ogni grande medico, per loro molte volte diciamo ragionamenti circa la non dico convenienza, ma comunque la sostenibilità degli investimenti li lascia un po' perplessi, come giusto che sia. Però abbiamo sempre trovato un'ottima sintonia. Ecco, in una struttura del genere ovviamente la parte diciamo scientifica, la parte medica rischia, cioè ha il sopravvento come visibilità, come apertura al pubblico. Assolutamente così, sì. Ed è giusto che sia così. Assolutamente giusto così, diciamo. Direi che è una delle cose che è implicita in questo tipo di attività. Ecco, ma in questo incontro forse vogliamo portare anche alla ribalta chi si muove un po' dietro le quinte, ma la cui funzione è essenziale per far funzionare le cose. Questo credo che sia anche giusto, non tanto per me, ma come riconoscimento a tutti gli amministratori delle strutture, che spesso sono anche alle prese con problemi di bilancio veramente notevoli. Sì, è vero, c'è questo lavoro nelle retrovie che però io ritengo sia altrettanto importante. Ecco, lei lo sente un po' come il fatto di restituire qualcosa alla società. Lei ha avuto molto nella sua carriera professionale, grandi soddisfazioni, adesso sta un po' restituendo. Sì, lo vedo proprio con questo profilo, e questo mi dà una grande gioia, e devo dire mi considero, ripeto, fortunato, perché mi consente di chiudere in bellezza la mia carriera professionale. Beh, che spero però possa essere ancora lunga, perché ormai la vita media si allunga. Beh, questo lo prendo come un auspicio, un augurio, la ringrazio, però direi che già questo lungo percorso è già stato importante per me. E solo stiamo in conclusione, se volesse compiere un altro passo, qual è una cosa che ha nel cuore, che pensa di poter fare nei prossimi... Ma guardi, io sono molto impegnato a titolo personale con una fondazione che chiamo Fondazione Virtuale, che è intestata alla memoria di mio figlio, un medico scomparso diciamo a 40 anni. E mi do molto da fare soprattutto con i paesi africani, e seguo molto le protesi per i bambini africani che perdono diciamo arti in incidenti. Sono proprio anche ieri andato a Bologna a Rizzoli, perché sto seguendo una di queste operazioni per uno di questi bambini. Sono operazioni complesse e anche costose, che la mia famiglia segue a titolo personale, ed è un lavoro che mi dà grande soddisfazione, perché si porta via dei bambini dalle carrozzelle, si riesce poi alla fin fine a mettergli un arto che diventa, è un arto artificiale, ma che diventa la sua gamba per il resto della vita. Questo in fondo dimostra che ogni vita umana, ogni persona merita di essere rispettata, la sua dignità deve essere difesa, deve essere protetta, deve essere curata se necessario. Assolutamente, è il nostro, direi che è un impegno che dovremmo avere tutti, sì. Si chiude qui questo incontro con Carlo Ciani, che io ringrazio di essere stato con noi questa domenica mattina. Grazie anche ai nostri ascoltatori, e sulla musica di Charlie Chaplin l'appuntamento è la settimana prossima. Arrivederci.